America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La voce è distante, ma avete riconosciuto il nome. Santo Versace ha ricevuto un premio. Cipriani, Wall Street, 800 persone, Operation Smile è una organizzazione filantropica che si occupa di operare i bambini nati con il labbro leporino che altrimenti non avrebbero speranza. Vi parlerò più avanti di filantropia e di questa operazione. Nel frattempo vorrei approfittare del fatto che abbiamo ai microfoni di America 24 Santo Versace. Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui. Ci diamo del tu con Santo perché ci conosciamo ormai da tanti anni, non diciamo quanti, però possiamo dire una curiosità ai nostri ascoltatori, Santo, che la Versace aveva gli uffici nello stesso palazzo da dove trasmettiamo, cioè nello stesso palazzo dove ci sono gli uffici del Sole 24 Ore. Quindi ci si incrociava in ascensore, ci si incrociava con te, ci si incrociava naturalmente con Gianni. Ecco, parliamo di Gianni. Che ricordi ti vengono in mente? Ma sai, Gianni aveva un grandissimo legame con l'America. Tanto sai che c'era, tu la conoscevi, la casa bellissima sulla 64, fra la Quinta e la Madison, la casa di Miami, dove lui è morto in America. Quindi diciamo che la sua vita era molto legata all'America, tanto che ci ha trovato anche la morte. Parliamo di moda un momento. Versace in America è diventato un mito, era diventato un mito. Qualcuno disse che con la tragica perdita di Gianni ci sarebbero stati dei problemi, invece il marchio tiene, mi sembra. No, i problemi è chiaro ci sono stati, perché una perdita in quella maniera oltretutto è normale che crei problemi, però l'azienda adesso sta andando magnificamente, Donatella si sta dimostrando straordinaria, la creatività, la qualità, l'identità di Gianni Versace e della Gianni Versace tiene benissimo, l'azienda è in netta fase di rilancio. Questo vale anche per mercati esteri tipo la Cina, ecco la Cina. Beh, com'è? Perché la Cina per noi è un mercato strepitoso, noi siamo entrati in Cina subito, quando la Cina aprì Versace, Zegna e Ferragamo sono stati i primi tre ad entrare, a svilupparsi, e noi continuiamo a sviluppare. La Cina è straordinaria per noi. Veniamo all'altra ragione per la quale tu eri qui a New York. Dobbiamo aprire una parentesi con i nostri ascoltatori perché ci consente, come facciamo ogni tanto, di parlare di eventi americani che dovrebbero avere forse proiezioni più approfondite nel nostro paese, cioè la beneficenza, la filantropia, la possibilità di raccogliere fondi per poter finanziare delle operazioni importanti di beneficenza. Che cos'è Operation Smile? Ma è una fondazione presente, nasce americana, in Italia presente è fatta da 10 anni la fondazione, opera i bambini che nascono malformati, labbro leporino, bileporino, paratoschisi in 60 paesi del mondo. L'anno scorso abbiamo operato più di 16.000, quindi è importantissimo. E allora sentiamo un piccolo spicchio di questa serata. Giada De Laurentiis che ti ha presentato. Giada De Laurentiis, nipote del grandissimo Dino, produttore, era suo nonno, e sua nonna era Silvana Manga. The name Versace is synonymous with absolute style, as we all know. And style is not merely what you wear, it is who you are. Sai, io sono stato in missione 4 volte, sono stato in Marocco 2 volte, a Oujda al confine con l'Algeria, sono stato ad Amman e anche ad Addis Abeba in Etiopia, quindi ho visto, toccato con mano cosa significa vedere le famiglie che portano questi bambini, lo sguardo anche dei bambini prima e dopo l'intervento, uno sguardo triste quasi di persone che hanno addosso un peso straordinario, uno sguardo che sorride guardandosi allo specchio dopo l'intervento. Quella cantante che ha solo 16 anni, che è stata operata quando aveva 4 anni e che adesso tu la vedi, ha una voce meravigliosa, mai nella vita avrebbe potuto fare questo senza l'intervento fatto 12 anni fa. E allora sentiamo la cantante Shadlene Laeda, anche lei ad animare questa serata. Shadlene, avete sentito che voce straordinaria? Bene, questa ragazzina di 16 anni era nata con il labbro completamente spaccato, ma una cosa molto molto grave, al punto che quando lei era piccola già diceva: ma io vorrei fare la cantante da grande, e le dissero che non era possibile proprio per questa sua malformazione che aveva alla bocca. L'operazione, avete sentito, l'ha trasformata. E dunque, grazie a questa operazione filantropica, grazie a questa raccolta di fondi straordinaria, che da noi, temo, non sarebbe possibile a questi livelli. Perché? Beh, perché c'è un problema fiscale. E qui comincio a parlare al deputato Versace. Quando è che riusciamo a fare la deduzione delle donazioni alle opere filantropiche in Italia? Il 100%? Guarda, è un discorso molto difficile in questo momento, perché c'è la scusa che abbiamo un debito pubblico alto, che non si possono ridurre le imposte, che è una cosa falsa. Io che vivo da 3 anni in Parlamento mi rendo conto che volendo si può tagliare tantissimo di spese inutili, di sperperi, di corruzione. Perché non scordiamoci che in Italia tutte le organizzazioni mondiali dicono, e anche adesso la Corte dei Conti, che la corruzione che gira intorno alle istituzioni supera i 60 miliardi di euro l'anno. Per dare 60 miliardi di euro ai corrotti, quanti ne bruciamo? I trasferimenti alle aziende superano i 45 miliardi l'anno. Possiamo abolirli e lasciargli i soldi direttamente alle aziende? Così li raccogliamo e li diamo in base al merito, alla ricerca e alla capacità di innovazione, e non che li prendiamo e li diamo agli amici degli amici come ci fa comodo e piacere. Ci vuole poco a cambiare l'Italia, ci vuole una rivoluzione culturale che diventi rivoluzione politica, che è una rivoluzione politica seria, con una classe politica che si ricordi che la politica e la ricerca del bene comune è la più alta forma di carità, questo paese in 3 anni rinasce. Partendo proprio da questo obiettivo di cui America 24 si fa promotore, cioè quello di cercare di introdurre la deduzione fiscale completa delle donazioni per opere filantropiche, ecco, cosa vogliamo dire al ministro Tremonti? Se Tremonti avesse le mani libere, non taglierebbe soltanto quello che ha tagliato, ma avrebbe tagliato almeno il 10% in più. Ma non è possibile, perché tu sai come è fatta la politica italiana, è fatta di lobby, di situazioni, tutti quanti che difendono l'esistente, nessuno pensa al futuro. Facciamo un confronto, qual è il tappo che tu vedi sul nostro paese, dovendo fare un confronto con quello che succede qua? Io, fra le tante oppressioni che ci sono in Italia, ne ho identificate 4, e mi piace molto che il termine oppressione se lo usa anche il primo ministro, lo usa anche Tremonti. C'è un'oppressione della politica, oltre 400.000 persone in Italia vivono di politica, intorno alla politica, con redditi molto più alti di quelli che dichiarano, con una produttività molto scarsa e in molti casi negativa, cioè fanno danni. Un'oppressione burocratica, la burocrazia prova a fare più danni alla criminalità organizzata e molto spesso ci riesce. Un'oppressione fiscale, chi realmente rispetta la legge paga dal 70 a oltre il 100% di imposte, quindi lo Stato, socio occulto, malfattore lo definisco io, impedisce alle aziende piccole e medie di crescere, perché gli porta via tutto. Se si guadagna, lo Stato preleva, se si perde sono cavoli degli imprenditori. E in ultimo l'oppressione criminale, che in alcune regioni impedisce veramente di lavorare. Per chiudere, un pensiero sull'America, cosa vedresti di positivo dell'America che potremmo portare in Italia? La trasparenza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi faccio ascoltare sempre dalla serata di beneficenza un gruppo di giovani che ha chiuso questa serata con una canzone, devo dire, travolgente, dei Neon Trees. Animal. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.